La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Questa è la storia di Tony Servillo e in qualche modo è la storia di una famiglia intera. Tony ha un fratello, Peppe, musicista, cantante degli Avion Travel. I fratelli Servillo è capitato cantassero assieme, come nel brano che state ascoltando, ed è capitato anche che recitassero assieme. It's wonderful, it's wonderful, like my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Quando cantano, si guardano e si sorridono. Nella loro vita, l'arte, il teatro, la musica sono entrati perché, come dice Tony Servillo, i genitori sono stati dei meravigliosi spettatori. Noi non abbiamo avuto né genitori né parenti che facessero il nostro mestiere. Mi sono limitato a dire, e questo la considero molto, una cosa molto importante, che abbiamo avuto dei parenti che sono stati dei grandi spettatori e quindi hanno profondamente amato il teatro, il cinema, l'opera e si sono limitati a trasferirci lo stupore, l'incantesimo della rappresentazione. Questo ha fatto sì che, per esempio, nel mio percorso io ho cercato sempre di tenere ben chiari le ragioni, lo spazio che ha lo spettatore nel gioco della rappresentazione. In questo modo quello stupore e quell'incantesimo restano molto importanti e si sottrae percentuale narcisistica ed esibitoria ad ogni qualvolta ci si propone in pubblico. Quindi questo è l'insegnamento che è venuto da questa famiglia di appassionati spettatori. Sul mare luccica la luna in transito, biancheggia il corpo di una bestia acquamarina. Quella di Tony Servillo è una storia fatta di scoperte lente e di un talento forte, immenso. Nasce il 25 gennaio del 59 ad Afragola, in provincia di Napoli. Non studia teatro Tony, è un autodidatta. A Caserta, negli anni 70, fonda il Teatro Studio, un teatro e una scuola che diventeranno un faro per la città, contagiando migliaia di ragazzi in tutta la Campania. Dal Teatro Studio di Caserta, Servillo e i suoi amici attori partiranno alla volta dell'Europa, riscuotendo successi incredibili. Il teatro non ha mai smesso di attirare la curiosità dei ragazzi, nel senso che è ancora una maniera di esprimersi che può essere esercitata con poco, con se stessi, col proprio corpo, con quattro tavole e con un testo che funziona. Quello che rispetto ai miei inizi invece, ahimè, è molto cambiata è l'attenzione che per questi fenomeni spontanei, perché poi possono diventare professioni, perché queste vocazioni diventino un mestiere, è l'attenzione che le istituzioni nel tempo hanno riservato. Quando io ho cominciato esistevano istituzioni per la circuitazione del teatro, c'era un ministero dello spettacolo che si occupava di queste cose, era un interesse generale della politica per la cultura in generale e per il teatro in particolare decisamente maggiore. Oggi credo che un ragazzo che vuole cominciare si trova sicuramente di fronte a maggiori difficoltà e al sud di conseguenza, come si moltiplicano, ahimè, da decenni le difficoltà al sud nel nostro paese, le difficoltà sono ancora maggiori. La strana idea che ho di libertà. il grande pubblico conoscerà Tony Servillo in Gomorra, ma prima ancora la sua carriera era stata costellata di grandi successi, soprattutto teatrali. Tutta sta roba? Ma che cosa? E pesce, butta sta roba, che ti può mangiare, niente come fai, te ne butto, butto. Hai fatto, Robè? Robè? Che? Senti, Franco, ci sto pensando da un po' di tempo. Forse non sono adatto per questo lavoro. Ma che stai dicendo? Camminiamoci, ne ha qua. No, davvero. Veramente. Non me la sento. Ma stiamo andando così bene, camminiamoci. No, Franco, non voglio più lavorare. Mi dispiace. Ciao. Ehi, Robè, magari in modo fai schifo su mestiere. O sai che la gente come me ha mandato in Europa sto paese in merda? O sai quanto operai se sono salvato perché non faccio spendere uno cazzo della loro azienda? Fermati, guarda, qua. Capito? Eh? Capito? Dibbete, tutta gente che si salva se la mandi perché ci sta a te. Ho visto come li fai campare. Salvi un operaio a Mestre e uccidi una famiglia a Mondragone. E è così che funziona. Ma non l'ho deciso io. Noi arriviamo a risolvere i problemi che hanno creato gli altri. Il cromo, l'amianto, non l'ho creato io. Le montagne non mi sono mangiati io. Funziona così. Funziona così? Funziona così. E non funziona così. No? No. No? Io non sono come te. No. E come sì? Sono diverso. Ah sì? Buffet e pizza. È diverso. Non ti credere essere meglio di me, capito? Ti ha dato un'occasione, no? La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Questa è la storia di Tony Servillo, uno dei più grandi attori italiani. Questa è la storia di una famiglia, di un padre e una madre che ai figli hanno passato l'amore per l'arte e la capacità di saper ascoltare. E infatti questa è una delle doti che subito si notano in Servillo, quella grande capacità di ascolto. Servillo è un uomo solido, forte del suo talento, umile da sorprendersi del clamore che i film da lui recitati portano in sala. Lei ogni volta che recita un ruolo, non so se gliel'hanno mai detto, comunque quando io vado al cinema, non alle prime ma come spettatrice, c'è sempre un applauso alla fine ed è quasi sempre per lei. Cioè, lei è consapevole di... Questo io non lo sapevo, me lo sta dicendo lei, mi lusinga, mi fa molto piacere, ma non lo sapevo. Sì, perché secondo me forse riesce veramente a toccare quelle corde che uno spettatore quando va al cinema vorrebbe che fossero toccate e forse fa parte di quella sua capacità di ascoltare e di scegliere prima, no? Non glielo so dire, guardi, fa molto piacere quello che mi dice, mi lusinga, ma non so risponderle. Questa forse è un'abitudine, sono un attore di teatro, quindi mi applaudono anche al cinema, però francamente non mi fa molto piacere, ma non lo sapevo. Le volevo chiedere questo, quanto ha influito nella sua vita professionale l'essere diventato padre? Questa è una domanda che non mi aspettavo, sinceramente. È una cosa importante che accade nella vita delle persone, sicuramente ha molto influito. Di solito non amo parlare di faccende così private e quindi non saprei in questo momento francamente cosa dirle. Come tutte le cose così importanti della vita, influisce molto, sicuramente. Ma lei come padre, poi non le faccio più domande personali, però è un padre molto presente, cioè amorevole. E mi porta a non esserlo quantitativamente, quindi come accade in questi casi si cerca di supplire, a volte però non è sufficiente con la qualità. Quali sono le, diciamo, se si può dire, le cose che l'hanno inorgoglita di più del suo lavoro? Cioè quando ha recitato, quale ruolo? Si è sentito veramente di stare mettendo un tassello importante anche nella società civile? Ma guardi, francamente questo non saprei. Io le posso dire che sicuramente l'aver costituito un organismo che si chiama Teatri Uniti e con cui continuo a collaborare, che è stato il frutto di una riunione di artisti diversi, che invece di pensare ognuno ad andare per la sua strada, a un certo punto hanno deciso di mischiarle, creando una sorta di factory che ha prodotto teatro, cinema e non solo, che ha fatto crescere, emergere tanti progetti da 25 anni a questa parte, è sicuramente qualcosa che mi riempie di orgoglio oggi, cioè essere stato uno di coloro che hanno contribuito a creare questo organismo che veramente ha inciso nel tessuto civile di una città spesso martoriata come Napoli. La vita di Tony Servillo è fatta di scelte ponderate. Non è mai per denaro che Servillo sceglie un film, ma solo per la bellezza del messaggio che porta. Ed è così che anno dopo anno il suo talento cresce e la gente lo ama, perché la gente ama la bravura e la bellezza. In pochi anni Servillo prende tutti i premi che si possono immaginare. All'estero è acclamato come una star. Con Martone prima, con Sorrentino poi, recita ruoli meravigliosi, intensi e drammatici, come nelle conseguenze dell'amore. Te lo ricordi Dino Giuffrè, il nostro vicino di casa? Certo che me lo ricordo. Eravate amici da piccoli, no? È il mio migliore amico. Ma perché lo vedi ancora? No. Non lo vedo, non lo sento da 20 anni. Vabbè, allora è un po' arduo definirlo il proprio migliore amico, no? Invece lo è. Ho capito, è il tuo amico immaginario. Come ce l'hanno i bambini, è quello a cui dici tutte le cose che non dici a me, le dici nella tua testa. Beh, Dino Giuffrè è il mio migliore amico e basta. Non sei stato amici una volta, lo sia per tutta la vita. Che cazzata. Vabbè, comunque, ti stavo dicendo, la settimana scorsa ho incontrato la sorella di Dino Giuffrè. Lo sai che cosa mi ha detto? Che non vive più a Salerno. Lavora per l'Enel. Su una montagna del Trentino Alto Adige, lui ripara le linee. Sai quando ci sono le tormente e va via la luce? Ecco, lui si arrampica sui piloni e ripara la linea. Pure di notte, col freddo, il vento, il gelo. E tu? Ti rendi conto che cazzo di lavoro infame si è messo a fare Dino Giuffrè o no? È un lavoro come un altro. Non è un lavoro come un altro. Vuol dire fare una vita di merda. Una cosa sola è certa. Io lo so. Ogni tanto, in cima a un palo della luce, in mezzo a una distesa di neve contro un vento gelido e tagliente, Dino Giuffrè si ferma. La malinconia lo aggredisce e allora si mette a pensare. E pensa che io, Titta di Girolamo, sono il suo migliore amico. Una volta termina qua. Grazie per essere stati con noi e grazie alle tante ragazze, giovani e meno giovani, che mi scrivono. Grazie a tutti. Il mio indirizzo è laprimavolta@radio24.it. Se volete potete riascoltarci in podcast e per diventare i nostri amici su Facebook invece andate sul sito della Prima Volta. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli.